Lo sai che cosa sento? Che è stato un momento di follia. Non ti amo e non mi pento. Se ti sei data non è stata colpa mia, ma so che non c'è una storia più facile di quella che ho con te. E tutte quelle serate alcoliche. Dimmi, dimmi che cosa vuoi da bere. Dimmi, dimmi che cosa vuoi da bere. Dimmi, dimmi che cosa vuoi da bere. Dimmi, dimmi che cosa vuoi. È meglio un momento che sia intenso, che la pioggia porta via, ma so che non c'è.